Letture di Radio 24. Il Salone del Libro dal 12 al 16 maggio a Torino dedica una mostra ai libri che rappresentano meglio l'Italia dei 150 anni. Tra i libri selezionati dal comitato scientifico c'è anche Cuore di Edmondo De Amicis. Non era possibile, naturalmente, ignorarlo. Così, tra i libri che hanno fatto gli italiani, compare anche il suo volume più famoso. Quel Cuore, iniziazione romanzesca, assieme a Salgari, di intere generazioni del nostro Novecento. Una citazione doverosa, ma imbarazzata. Quella che ricorda De Amicis nell'ambito dei festeggiamenti per i 150 anni dell'Unità Nazionale. Perché lo scrittore ligure torinese è tuttora sottoposto alla damnatio memoriae letteraria a cui lo condannò prima Carducci, con la famosa definizione di Edmondo dei Languori, e poi Umberto Eco, con il sarcastico Elogio di Franti. L'occasione celebrativa, invece, poteva costituire un ottimo pretesto per sottrarsi al conformismo pseudo-chic del sostanziale oscuramento che gli organizzatori hanno compiuto su di lui. Si sarebbe fatto apprezzare agli italiani il fondatore di una figura letteraria, quella dello scrittore giornalista, che ebbe in De Amicis il suo più celebre e forse unico rappresentante fino alla grande stagione del secondo dopoguerra, quella di Moravia, di Parise, di Soldati e di Piovene. La modernità del De Amicis giornalista è caratterizzata proprio dal canonico metodo del reportage, fondato su una descrizione che raccoglie il paesaggio umano assieme a quello naturale, in un mix seduttivo affidato a una vivace accensione delle emozioni. Folco Portinari, nella bella introduzione del Meridiano che raccoglie gli scritti di De Amicis, scrive a questo proposito che i suoi libri di viaggio sono ancora dopo oltre 100 anni la miglior guida turistica, perché inducono il lettore, incuriosendolo e appassionandolo, a ripetere la stessa esperienza, come oggi con fotografie o spezzoni filmati. Oltre all'aspetto formale dei suoi scritti, De Amicis è un grande maestro di giornalismo, per la capacità di cogliere la realtà che vede senza alcun pregiudizio. È il primo, infatti, ad accorgersi del grande fenomeno emigratorio di quell'Italia che tra il 1876 e la fine del secolo disperde nel mondo 5 milioni dei suoi abitanti, cosa che non viene assolutamente rilevata, ad esempio, dai più famosi scritti del realismo d'epoca, da Verga a Capuana, perché nel 1887 si imbarca su una nave che va in Sud America e scrive un bellissimo libro, Sull'oceano, resoconto dolente e struggente di quella disperata umanità in cerca di una vita sognata. De Amicis racconta agli italiani la loro terra, anche quella più lontana e sconosciuta, appena riunita in una nazione, a partire dai suoi lunghi soggiorni in Sicilia, tradotti in profondi reportage sulle condizioni sociali degli abitanti. Il primo avviene nel 1867, quando lo scrittore, giovane ufficiale, viene spedito nell'isola per alleviare le sofferenze della popolazione colpita da un'epidemia di colera. L'esperienza finisce in un libro intitolato La vita militare, nel quale si esprime comprensione per le rivolte che costringono i militari a difendersi da chi li crede avvelenatori, untori mandati da un governo nemico, perché la superstizione, la paura, la miseria sono assidue compagne della moria presso tutti i popoli e tutti i tempi. L'acutezza del giornalista che riesce a cogliere i primi fermenti delle novità dall'osservazione minuta della vita degli uomini e dalle trasformazioni del paesaggio è testimoniata poi da molti altri suoi resoconti. Oltre al valore della scuola, ovviamente, come crogiolo dell'Italia futura, De Amicis rileva l'apporto dell'educazione fisica per l'inserimento della donna in un ruolo sociale di maggiore autonomia, così come scruta i nuovi mezzi di trasporto urbano, i tram, microcosmi viaggianti di curiosi bozzetti cittadini, in un libro intitolato La carrozza di tutti. I viaggi di De Amicis percorrono tutta l'Europa, dalla Spagna a Costantinopoli, e si aprono alla conoscenza dei maggiori intellettuali stranieri, a partire dai francesi Zola, Hugo e Daudet, fino ad arrivare a Wagner, Nietzsche, Oscar Wilde, Gustav Klimt, il Kaiser Guglielmo II, lo Zar Nicola I. Ecco perché sarebbe il caso di essere meno provinciali, anche noi, nel giudizio su De Amicis, scrittore e giornalista, senza offesa per nessuno. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Luigi La Spina, De Amicis, non solo cuore, pubblicato dalla Stampa del 22 aprile. Ai libri dei 150 anni, Radio 24 dedica da domani la rubrica L'Italia in 15 libri, In onda tutti i giorni alle 6.10, 10.50 e 23.50. Zanini, produzione Porte Hotel Tagliafuoco. Sogni d'oro, Zanini Porte. Letture di Radio 24. La capitale tedesca assiste di anno in anno a un nuovo fenomeno, sempre più significativo. Crescono in città le ragazze madri o comunque le donne sole con figli. Berlino non è più solo la città dei giovani europei. Le incontri a fare la spesa, cariche di buste gonfie con la carrozzina e nessuno al fianco. Le incroci al semaforo sono le eroine sconosciute della vivace postmoderna Berlino. Le ragazze madri vivono di corsa, si dividono tra lavoro e figli. Metà di loro riceve poco o nulla in alimenti e aiuti dal padre. Le più povere le salva il welfare. Sono in tante, sempre più numerose. Un terzo delle mamme berlinesi tira avanti senza l'aiuto del marito o del compagno. È una realtà nascosta e dura della vivace città laboratorio e le pone nuove sfide. Ma al tempo stesso è anche un nuovo volto della normalità quotidiana, una parte vivace e coraggiosa della città che ce la fa e va avanti nella vita stringendo i denti ogni giorno. Le mamme single non sono considerate di per sé, in generale, come un gruppo sociale gravato di problemi, spiega Martina Krall, dell'Associazione Cittadina dei Genitori Soli. A Berlino, spiega, vivono molte donne che hanno deciso di preferire il ruolo di ragazza madre, hanno scelto di crescere i figli da sole, anziché in conflitto permanente con un partner con cui nulla funziona più. Berlino, insomma, non è solo la città sognata dai turisti giovani di tutto il mondo, è anche una capitale mondiale delle ragazze madri. I dati fotografano realtà estreme. A Berlino vivono in totale circa 420.000 nuclei familiari. Di questi, oltre un terzo, cioè 150.000, sono composti da genitori soli, di cui le ragazze madri sono l'89%, la stragrande maggioranza, 134.000. I ragazzi padri sono appena l'11% restante. L'anno scorso, rispetto al 2009, le precise anagrafi della città e dei suoi servizi di welfare hanno contato 15.000 mamme sole in più. Sembra paradossale, ma proprio una metropoli vivace, bella e vivibile come Berlino non è l'ambiente ideale per la garanzia di una famiglia che duri. Oltre metà dei matrimoni nell'ex città del muro falliscono dopo pochi anni e almeno metà dei padri che fanno le valigie e vanno via pagano raramente o mai gli alimenti. In una città grande come Berlino, le ragazze madri affrontano meno pregiudizi ostili che non in provincia, dice lo psicologo Thomas Kornbichler. Molti piccoli berlinesi apprendono vita e mondo con un genitore solo. 378.000 bambini vivono nella capitale con genitori sposati, 73.000 con coppie di fatto e ben 209.000 con uno solo dei genitori, il più delle volte mamma, appunto. Non è sempre facile, è dura farsi assumere quando il datore di lavoro sa che hai uno o più bimbi da accudire a casa. Le ragazze madri stringono i denti e vanno avanti. Non è nemmeno raro che nella moda, nei media o in altre realtà di lavoro si impongano e facciano carriera. Eroine nascoste, su cui spesso in ogni ambiente e fascia di reddito il mondo circostante chiude gli occhi. La vita dura nelle grandi città non è più quella della Londra di Dickens o della Berlino di Weimar, ma colpisce ancora, specie l'altra metà del cielo. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Andrea Tarquini, Le ragazze madri scelgono Berlino, pubblicato dalla Repubblica del 20 aprile. Mangiare lentamente non è solo un consiglio antistress per i 3 milioni di italiani che consumano il pranzo in piedi o i 300.000 che ogni giorno fanno pausa in meno di 10 minuti. Una corretta abitudine alimentare preserva da malattie, aiuta a mantenere la linea e, non meno importante, ci fa gustare meglio il cibo. Ore 13. 25 milioni di pasti vengono preparati e consumati lontano da casa. Tra bar, tavole calde, paninerie, ristoranti e mense. Una porzione di italiani, il 14%, riesce a trasformare il pranzo in un autentico autogol perché mangia in piedi. E ancora, Uno su 100 trangugia una sorta di pranzo o cena in 8-10 minuti, il record del masochismo, che manda a farsi benedire in un sol boccone le buone maniere del galateo, il gusto e anche la salute. È stato il Barilla Center for Food and Nutrition a cronometrare i tempi degli italiani a tavola. Sotto la lente, i 105 milioni di pasti che, complessivamente, si macinano ogni giorno da noi. Risultato? Troppa fretta. Anche quando non c'è bisogno, anche a casa, non solo nella pausa del lavoro, non solo tra gli adulti. Il mandar giù tanto, tutto, in poco tempo è ormai abitudine quasi consolidata. Una pesante eredità dell'ormai vecchio fast food che, pure incalzato dai sostenitori del lento mangiare, ha ormai fatto scuola, anche quando non c'è bisogno. Nei casi in cui i minuti sono un po' di più, si arriva a scegliere il surrogato del pranzo condensato in un piatto preconfezionato. Tocca correre ai ripari, dicono i nutrizionisti, perché mangiare di corsa fa divorare di più durante la giornata, perché lo stomaco ne risente, perché si manda giù tanta aria da far lievitare la pancia, perché così non si sentono neppure i sapori. Al cervello, per esempio, servono 20 minuti per darci il senso di sazietà. Se invece i tempi si accorciano, si prosegue ad ingerire cibo senza rendersi conto che si è pieni. Inoltre, l'avvicinarsi ai piatti con foga nega l'intensità dei sapori. Masticare a lungo, come suggerisce la Società di Gastroenterologia, permette di gustare appieno ogni proposta. La lentezza, per giunta, può essere una buona alleata per limitare le quantità di dolci. Basta leggere uno studio pubblicato su Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism per dare una risposta scientifica a quelli che, con superficialità, vengono considerati solo consigli di buon senso. Lo studio porta la firma dei ricercatori del Laico General Hospital di Atene. Al centro della sperimentazione, 300 grammi di gelato da somministrare a ogni volontario. Al gruppo è stata data mezz'ora per gustarlo. Alcuni hanno lasciato la coppetta vuota in pochi minuti, gli altri hanno approfittato del tempo a disposizione. Dopo la degustazione, ai volontari è stato fatto un prelievo di sangue per verificare il dosaggio di glucosio, insulina, grassi e livelli di due ormoni, quelli che vengono prodotti dall'intestino e lavorano sul cervello, inducendo il senso di sazietà. Chi aveva usato tutto il tempo necessario aveva anche i livelli più alti degli ormoni. Quindi, una volta finita la porzione, riusciva a provare un sano senso di soddisfazione e sazietà. Per questo, è il commento di Alexander Kokkinos che ha guidato la ricerca, spesso mangiamo più del necessario. È il caso di riprenderci il nostro tempo per consumare sia il pranzo che la cena, dando in questo modo la possibilità al nostro organismo di sentire proprio la sazietà. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Carla Massi, 8 minuti per un pranzo, pubblicato dal Messaggero del 18 aprile. Fabrizio Gatti, giornalista dell'Espresso e esperto di tematiche migratorie, sta seguendo per il suo giornale il viaggio dei tunisini che da Lampedusa puntano a nord alle Alpi per poi dirigersi in Francia o negli altri stati europei di Schengen. Una generazione di tunisini in fuga dal Mediterraneo. Una generazione di politici in fuga dagli ideali dell'Unione Europea. È quello che l'Espresso sta raccontando seguendo giorno e notte il viaggio delle persone appena rilasciate dai campi di accoglienza. I protagonisti sui quali si è aperta una delle più gravi crisi dell'Unione Europea. Ancora non sappiamo quale sarà la meta finale. Per raggiungere i confini europei dalla Puglia si impiegano mediamente 2 giorni di treno. Ai tunisini la polizia consegna un permesso di soggiorno di 6 mesi per motivi umanitari. È un documento di viaggio e di identità che sostituisce la carta d'identità e il passaporto. È proprio questo il documento contestato dal Ministero dell'Interno francese, ma anche dal governo tedesco. Sul documento di viaggio è scritto che è valido in tutti i paesi riconosciuti dal governo italiano. Ma, come si è visto nei giorni scorsi, la Francia non lo reputa valido, disconoscendo così gli accordi di Schengen e la stessa autorevolezza del nostro governo, che è il vero cuore del problema. Per quanti non vengono trasferiti in autobus ai centri di accoglienza, il primo ostacolo è il biglietto del treno. Chi parla solo arabo non trova nessuna spiegazione nella sua lingua nelle macchinette automatiche, tantomeno in biglietteria. Così a volte partono senza biglietto, anche perché non tutti hanno abbastanza euro per pagarlo. Domenica scorsa, su un Frecciarossa del Mattino da Roma a Milano, sono saliti 30 tunisini senza biglietto arrivati dalla Puglia. A Firenze è scoppiato il caos perché altrettanti passeggeri che avevano pagato il biglietto volevano giustamente i loro posti. È salito un poliziotto in borghese, ha chiesto ai profughi di scendere, ma parlava soltanto italiano e alcuni tunisini all'inizio non capivano perché dovessero lasciare il posto visto che erano saliti prima degli altri. Un passeggero ha tradotto in francese la richiesta del poliziotto. I tunisini si sono scusati e sono subito scesi per prendere un Intercity del pomeriggio, meno costoso e meno affollato. Clima tornato tranquillo anche nel bellissimo paese di Oria, a 5 chilometri dal campo di identificazione di Manduria, tra le province di Brindisi e Taranto. I tunisini, liberi di uscire dal campo durante il giorno, affollano la strada fino ai negozi di alimentari del paese. «Andiamo a comprare un panino, a bere un caffè», racconta Fami, trentenne tunisino sbarcato a Lampedusa a fine marzo. «Il cibo nel campo non è molto ricco, sembra quello dell'ospedale e a metà giornata torna la fame». Angelo Leo, sindacalista della CGIL, è però preoccupato. Alcuni esponenti locali della destra stanno distribuendo agli abitanti volantini con notizie false per fomentare gli animi. Fami vuole andare a Parigi, dalla moglie francese conosciuta a Gerba e dalla sorella che fa l'insegnante. Un ennesimo caso di ricongiungimento negato dai consolati francesi in Tunisia. «La polizia italiana non mi ha ancora dato i documenti», racconta. «La sera nel campo espongono le liste dei fortunati. Non appena esce il mio nome, parto. Inshallah». Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Fabrizio Gatti, In fuga con i tunisini, pubblicato dall'Espresso in edicola questa settimana.